Una voce da dentro la torre urlò. Sei lassù, Mulligan? Vengo! Rispose Mulligan. Si voltò verso Steven e disse: Guarda il mare. Che cosa gliene importa delle offese? Piantalo, Iola, Kinch, e vieni giù. Il sassone reclama le sue trance mattutine di bacon. La sua testa tornò a fermarsi per un momento in cima alla scala, al livello del tetto. Non mugugnarci sopra tutto il giorno, disse. Io parlo a vanvera. Desisti da codeste ruminazioni. La testa scomparve, ma il bombito della sua voce discendente emergeva rombando dalla cima delle scale. Non appartarti più per ruminare sull'amaro mistero dell'amore, poi che Fergus governa i bronzei cocchi. Ombre silvane attraversavano, fluttuando silenziose, la pace mattutina dalla cima della scala verso il mare, dove egli teneva fisso lo sguardo. Sulla spiaggia e più al largo biancheggiava lo specchio d'acqua sommosso da piedi frettolosi dai leggeri calzari. Bianco seno di fosco mare. Vocaboli paralleli a due, mano che pizzica le corde dell'arpa, congiungendo gli accordi paralleli. Biancondose, appaiate parole baluginanti sulla fosca marea. Una nuvola cominciò a coprire lentamente, completamente il sole, ombreggiando la baia di verde più fondo. Era alle sue spalle, bacino da mare acque. La canzone di Fergus. La cantavo da solo in casa, tenendo in sordina i lunghi, cupi accordi. La porta della sua camera era aperta. Lei voleva sentire la mia musica. Silenzioso di sgomento e pietà mi avvicinai al suo capezzale. Piangeva nel suo letto sciagurato. Per quelle parole, Steven, l'amaro mistero dell'amore. E ora dove? I suoi segreti, vecchi ventagli di piume, carne di ballo con le nappe incipriate di muschio, un fronzolo di chicchi d'ambra nel cassetto chiuso a chiave. Una gabbia da uccelli era appesa alla finestra soleggiata di casa sua quando era bambina. Aveva sentito il vecchio Royce cantare nella pantomima di Turco il Terribile e riso con gli altri quando egli cantava «Sono io il bimbo, possessor del nimbo, che lo fa invisibile». Fantomatica gioia, piegata e messa via, profumata di muschio. Non appartarti più per ruminare, piegata e messa via nella memoria della natura con i suoi balocchi. Ricordi gli assalivano il cervello rimuginante, il bicchier d'acqua del rubinetto di cucina, quando si era accostata al sacramento, una mela svuotata piena di zucchero caramellato a rosolarsi per lei sul focolare in una buia sera d'autunno, le sue unghie affusolate, rosse del sangue di pidocchi strizzati sulle camicie dei bambini. In un sogno, silenziosamente, era venuta lui. Il corpo consumato nel molle sudario spandeva un sentore di cera e di legno di rosa. L'alito, china su di lui con mute, segrete parole, un lieve odore di ceneri bagnate. I suoi occhi invetrati, fissi da oltre la morte, per scuotere e piegare la mia anima, su me solo, la candela fantasma a illuminare la sua agonia, luce spettrale sul viso tormentato. Il forte respiro rauco, rantolante d'orrore, mentre tutti pregavano in ginocchio, i suoi occhi su di me per abbattermi. Liliata rutilantium te confessorum turma circundet, jubilantium te virginum corum excipiat. Lemure, masticatore di cadaveri. No, mamma, lasciami stare e lasciami vivere. Oh, Issa Kinch! La voce di Buck Mulligan cantava dentro la torre. Si avvicinò al sommo della scala ripetendo il richiamo. Steven, ancora tremando al grido della sua anima, udì un caldo scorrere di luce solare e parole amiche nell'aria alle sue spalle. Dedalus, scendi da bravo marmocchio. La colazione è pronta. Heinz fa le sue scuse per averci svegliati la notte scorsa. Tutto in regola. Vengo, disse Steven volgendosi. Forza, per amor di Gesù, disse Buck Mulligan. Per amore di me, per amore di tutti noi. La sua testa sparì e riapparve. Ah, gli ho detto del tuo simbolo dell'arte irlandese. Dice che è molto ben trovato. Spremigli una sterlina, ti va? Una ghinea piuttosto. Mi pagano stamattina, disse Stephen. Quel casino di scuola? Disse Buck Mulligan. Quanto? 4 sterline, prestacene una. Se ti serve, disse Stephen. 4 sovrane splendenti, gridò Buck Mulligan con gusto. Faremo una grandiosa bevuta da sbalordire i druidici druidi. 4 onnipotenti sovrane. Agitò le braccia in aria e caracollò giù per gli scalini di pietra cantando stonato con accento londinese. Che bella festa, che bel festino, con whisky, birra e vino. Quando è il dì dell'incoronazione, che bella festa, che bel festino, il dì dell'incoronazione. Calda solarità in festa sul mare. Il bacile di Nickel brillava, dimenticato sul parapetto. E perché dovrei portarlo giù? Oppure lasciarlo là tutto il giorno? Amicizia dimenticata. Si avvicinò, lo tenne un po' tra le mani, sentendone il fresco, annusando la bava collosa della schiuma in cui stava impegolato il pennello. Così reggevo il bossolo dell'incenso in quel tempo, a Clongowes. Ora sono un altro, eppure sempre lo stesso, sempre un servo, il servitore di un servo. Nel fosco tinello a cupola della torre, la sagoma di Buck Mulligan in vestaglia andava e veniva arzilla al focolare, nascondendone e scoprendone il giallo barbaglio. Due fasci di morbida luce mattutina piombavano dagli alti barbacani sul pavimento lastricato, all'incrocio dei loro raggi una nuvola di fumo di carbone e vapori di grasso fritto aleggiavano, mulinando. Finiremo asfissiati, disse Buck Mulligan. Heinz, apra quella porta, le spiace? Stephen posò il bacile sulla credenza. Un'alta figura si levò dall'amaca dove stava seduta, andò alla bussola e spalancò i battenti interni. Ha la chiave? Domandò una voce. La Dedalus, disse Buck Mulligan. Mondo cane, soffoco! Berciò senza alzare gli occhi dal fuoco. Kinch! È nella toppa, disse Stephen venendo avanti. La chiave stridette 2 volte aspramente e quando la pesante porta venne socchiusa, entrarono gradita luce e aria vivida. Heinz rimase nel vano guardando fuori. Stephen trascinò fino al tavolo la sua valigia volta all'insù e sedette in attesa. Buck Mulligan spadellò il fritto sul piatto vicino a lui, poi portò al tavolo il piatto e una gran teiera, li mise giù pesantemente e dette un respiro di sollievo. Mi sto sciogliendo, fece, come disse la candela quando. Ma zitti, non una parola di più su questo argomento. Kinch, sveglia. Pane, burro, miele. Heinz, entri. Il rancio è pronto. Benedici noi, o Signore, questi tuoi doni. Dov'è lo zucchero? Cribbio, non c'è latte. Steven andò a prendere dalla credenza la pagnotta e il vasetto del miele e la vaschetta del burro. Buck Mulligan si sedette con improvvisa stizza. Che casino è questo? Disse. Le avevo detto di venire dopo le 8. Possiamo prenderlo scuro? Disse Stephen. C'è un limone nella credenza. Al diavolo te e le tue manie parigine, disse Buck Mulligan. Voglio latte di Sandy Cove. Heinz abbandonò la soglia e disse tranquillamente. Sta salendo quella donna col latte. Heinz, Dio la benedica! Gridò Buck Mulligan saltando su dalla seggiola. Si sieda, versi il tè, lo zucchero nel sacchetto. Forza, ne ho abbastanza di giostrare con queste uova della malora. Trinciò in lungo e in largo la frittata nel piatto e la sbatté su 3 piattini dicendo: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Heinz si sedette per versare il tè. Vi do 2 zollette a testa, disse. Ma dico, lei Mulligan lo fa forte il tè, vero? Buck Mulligan, tagliando spesse fette dalla pagnotta, disse con una voce da vecchietta smancerosa: Quando faccio il tè, come diceva nonna Grogan, e quando faccio acqua. Per Giove, questo è tè, disse Heinz. Buck Mulligan continuò a tagliare e a parlare smanceroso. Proprio così, Mrs. Cale, dice lei. Perdinci, signora, dice Mrs. Cale. Dio vi conceda di non farli nello stesso vaso. tese via via a ognuno dei suoi commensali una spessa fetta di pane impalata sul coltello. «Questa è gente per il suo libro, Heinz», disse con grande serietà. «Cinque righe di testo e 10 pagine di nota sul popolo e gli dei pesci di Dundrum, stampato appo le fatali sorelle nell'anno del gran vento». Si voltò verso Steven e domandò con tornita inflessione dubitativa, alzando i sopraccigli. «Ti sovviene, fratello, che il vaso del tè e dell'acqua di nonna Grogan si trovi menzionato nel Mabinogion, ovvero nell'Upanishad?» «Ho i miei dubbi», disse gravemente Steven. «Davvero?» disse nello stesso tono Buck Mulligan. «E le tue ragioni, di grazia?» «Immagino», disse Steven mangiando, «che non sia mai esistito, né dentro né fuori del Mabinogion». Nonna Grogan era, si suppone, consanguinea di Mary Ann. Il viso di Buck Mulligan sorrise di piacere. Incantevole, disse con voce preziosa, mostrando i denti bianchi e strizzando amabilmente gli occhi. Credi proprio? Incantevole davvero. Poi, rannuvolando d'un tratto tutta la faccia, grugnì con voce roca e rasposa mentre tornava ad affettare vigorosamente la pagnotta. Perché la vecchia Mary Ann non gliene frega niente, ma alzando le gonnelle, si riempì la bocca di fritto e masticò e mugolò. Il vano della porta fu oscurato da una figura che entrava. Il latte, signore! Avanti, signora, disse Mulligan. Kinch, prendi il bricco. Una vecchia si fece avanti e si fermò accanto a Steven. È una bella giornata, signore, disse. Sia gloria al Signore. A chi? Disse Mulligan, dandole un'occhiata. Ah, sì, naturalmente. Steven si sporse all'indietro e prese il bricco del latte dalla credenza. Gli isolani, disse Mulligan a Heinz come di passata, parlano spesso dell'esattore di prepuzzi. Quanto, signore? Domandò la vecchia. 2 pinte, disse Steven. La guardò mentre versava nel misurino e di lì nel bricco il pingue latte bianco, non il suo. Vecchie mammelle avvizzite. Ne versò un'altra misura colma e una giunta. Vecchia e segreta era entrata da un mondo mattutino, forse una messaggera. Vantava la bontà del latte nel versarlo. Accoccolata presso una vacca paziente all'alba nel pascolo lussureggiante, strega sul suo fungo velenoso, dita grinzose e alacri sui capezzoli sprizzanti, muggivano intorno a lei che ben conoscevano le bestie seriche di rugiada. Seta delle mucche e povera vecchietta, nomi che le si davano nei tempi andati. Una vegliarda errante, umile forma di un immortale che serve chi la conquise e chi allegramente la tradì. Loro druda comune, messaggera del segreto mattino. Se per servire o per rampognare lui non avrebbe saputo dirlo, ma sdegnava di sollecitarne i favori. Proprio così, signora, disse Buck Mulligan, versando il latte nelle tazze. Lo assaggi, signore, disse lei. Egli bevve al suo invito. Se soltanto potessimo vivere di cibo buono come questo, le disse a voce piuttosto alta, non avremmo il paese pieno di denti guasti e budella marce. Si vive in una palude infetta, si mangia cibo da pochi soldi con strade lastricate di polvere, merda di cavallo e sputi di tisici. Lei studia da medico, signore? Domandò la vecchia. Sì, signora, rispose Buck Mulligan. Guardi un po', disse la vecchia. Steven ascoltava in sdegnoso silenzio. Quella china la vecchia testa a una voce che le parla forte, il suo conciaosso, il suo stregone. Me mi sdegna. Alla voce di colui che la confesserà e che ungerà per la tomba tutto quel che resta di lei, salvo i lombi immondi di donna, di carne d'uomo non fatta somiglianza di Dio, preda del serpente, e alla voce alta che ora le impone di tacere con occhi stupiti, incerti. Capisce quel che le dice? Domandò Steven. Parla francese, signore? Disse la vecchia Heinz. Heinz tornò a parlarle, un più lungo discorso, sicuro di sé. Irlandese, disse Buck Mulligan. Mastica il gaelico, lei. Mi pareva che fosse irlandese, disse lei. Dal suono. Lei è dell'Ovest, signore? Sono un inglese, rispose Ice. È inglese, disse Buck Mulligan. E pensa che dovremmo parlare irlandese in Irlanda? Certo che dovremmo, disse la vecchia. E io mi vergogno di non parlarlo. Mi dicono quelli che se ne intendono, che è una gran lingua. Grande non è la parola, disse Buck Mulligan. È semplicemente meravigliosa. Versaci un altro po' di tè, Kinch. Ne gradisce una tazza, signora? No, grazie, signore, disse la vecchia, infilandosi il manico del bidone nell'avambraccio e disponendosi ad andarsene. Heinz le disse: Ha portato il conto? Sarebbe meglio pagarla, vero, Mulligan? Steven tornò a riempire le 3 tazze. Il conto, signore? Disse lei fermandosi. Dunque, sono 7 mattine, una pinta, 2 pence fa 7 volte 2, fa un uscellino e 2 pence, e queste 3 mattine, 2 pinte a 4 pence fa 6 pinte che fa un uscellino. Questo è l'uscellino è 1 e 2 che fa 2 e 2, signore. Buck Mulligan sospirò e riempitasi la bocca di una crosta di pane generosamente imburrata da tutte e due le parti, allungò le gambe e cominciò a frugarsi nelle tasche dei pantaloni. Paghi col sorriso sulle labbra, gli disse Heinz gaiamente. Steven riempì una terza tazza, il denso ricco latte colorandosi debolmente d'una cucchiaiata di tè. Buck Mulligan cavò fuori un fiorino, lo rigirò tra le dita e gridò: Miracolo! Lo fece passare lungo la tavola verso la vecchia, dicendo: Non chiedermi altro tesoro, ciò che posso io te lo do. Steven le depose la moneta nella mano passiva. Dobbiamo ancora 2 pence, disse. C'è tempo, signore, disse la vecchia prendendo la moneta. C'è tempo. Buongiorno, signore. Fece la sua riverenza e se ne andò, seguito dalla tenera cantilena di Buck Mulligan. Cuor del mio cuore, se più ce ne fosse, più ne sarebbe messo ai tuoi piedi. Si voltò a Steven e disse: Sul serio, Dedalus, sono all'asciutto. Fa una corsa a quel casino della tua scuola e portaci un po' di soldi. Oggi i bardi devono bere e sollazzarsi. In questa giornata l'Irlanda si aspetta che ognuno faccia il suo dovere. A proposito, disse Heinz alzandosi, ho da fare una visita alla vostra biblioteca nazionale oggi. La nostra nuotata prima di tutto, disse Buck Mulligan. Si voltò a Steven e domandò soavemente: È questo il giorno del tuo lavacro mensile, Kinch? Poi disse Heinz: L'immondo bardo si picca di farsi il bagno una volta al mese. Tutta l'Irlanda è bagnata dalla corrente del golfo, disse Steven facendo gocciare il miele su una fetta di pane. Heinz, dall'angolo in cui stava placidamente annodando una sciarpa sul colletto floscio della camicia da tennis, disse: Se mi consente, vorrei fare una raccolta dei suoi detti. Parla Parla a me. Si lavano e si invascano e si fregano. Hagen bite of Inuit. Coscienza. C'è ancora una macchia qui. Quello sullo specchio incrinato di una serva come simbolo dell'arte irlandese è maledettamente buono. Buck Mulligan diede un calcio a Steven sotto la tavola e disse con molto calore: Aspetti a sentirlo parlare di Amleto, Heinz. Beh, parlo sul serio, disse Heinz, sempre rivolto a Steven. Ci stavo giusto pensando quando è arrivata quella povera vecchia. Potrei farci i quattrini? Domandò Steven. Heinz rise e prendendo il cappello di feltro grigio dal piolo della maca disse: Non saprei davvero. Si avviò verso la porta d'uscita. Buck Mulligan si chinò verso Steven e disse con ruvida energia: Hai sfasciato tutto con le tue zampe adesso. Perché l'hai detto? Beh, disse Steven, il problema è di far soldi. Da chi? Dalla lattaio o da lui? Testa o croce, mi pare. Io ti faccio la piazza, disse Buck Mulligan, e poi arrivi tu con quel tuo schifoso sogghigno e i tuoi lugubri scherzi da gesuita. C'è poco da sperare, disse Steven, sia dall'una che dall'altro. Buck Mulligan sospirò tragicamente e posò la mano sul braccio di Steven. Da me, Kinch, disse. Poi, con tono improvvisamente cambiato, soggiunse: Per dirti la sacrosanta verità, credo che tu abbia ragione. Non servono a un accidente d'altro. Perché non te li giostri come faccio io? E il diavolo se li porti. Usciamo da questo casino. Si alzò, solennemente discinto, si spogliò della vestaglia, dicendo rassegnato: Ecco Mulligan dispogliato dei suoi paramenti. Vuotò le tasche sul tavolo. Ecco il tuo moccichino, disse. E mettendosi il colletto duro e la cravatta ribelle, parlò a loro rampognandoli e alla catena dell'orologio ciondolante. Le mani si affondarono e frugarono nel baule mentre reclamava un fazzoletto pulito. Dio, non rimane che vestirsi in carattere. Ho bisogno di guanti color pulce e di stivali verdi. Contraddizione. Mi contraddico? Benissimo, sì, mi contraddico. Mercuriale Malachi. Un missile floscio e nero partì in volo dalle sue mani parlanti. Ed ecco il tuo cappello da quartiere latino. Disse. Steven lo raccattò e se lo mise. Heinz li chiamò dalla soglia. Venite, giovanotti! Io sono pronto, rispose Buck Mulligan, andando verso la porta. Vieni, Kinch. Hai mangiato tutto quel che abbiamo lasciato, immagino. Rassegnato, uscì con gravità di parole di incedere, dicendo quasi che con dolore. E uscendo in campo, si imbatté in Butterley. Steven, prendendo il bastone di frassino dal luogo d'appoggio, li seguì e, mentre scendevano la scala a pioli, si tirò dietro la lenta porta di ferro e chiuse la serratura. Mise la grossa chiave nella tasca interna. Ai piedi della scala, Buck Mulligan domandò: Hai preso la chiave? Ce l'ho, disse Steven, precedendoli. Camminò avanti. Sentiva dietro di sé Buck Mulligan percuotere col pesante asciugamano le cime più alte delle felci o delle erbe. Giù, cuccia! Come ardisci, canaglia!